abbiamo individuato tre valori chiave. Il primo valore è l'italianità, poi l'eleganza italiana e il temperamento italiano. Così il numero uno di Lancia Automobile, Olivier François, sintetizza i punti forti di Lancia Delta, sulla quale il gruppo Fiat punta molto. Sarà in vendita da 21 giugno, con prezzi da 21.000 euro a 31.000 euro. L'obiettivo è di vendere 60.000 prodotti sui mercati di attuale presenza e 10.000 nei nuovi mercati, tra cui anche la Gran Bretagna. Tempi lampo per lo sviluppo del modello, come spiega Harald Wester, direttore della progettazione del gruppo Fiat. Il progetto è stato realizzato in soli 15 mesi e mezzo, dal momento in cui è stato congelato lo stile. Fiducioso l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Abbiamo la gamma ideale per competere. Delta è il primo prodotto completamente nuovo che Lancia introduce da 5 anni, già pronto per i futuri standard europei. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore.